Ronny seduto accanto a me. Ronny, lui è chi è? Il tuo migliore amico? È il mio migliore amico, la mia sveglia, il mio traguardo, il mio angelo custode quando su di me veglia il suo sguardo. Quando ritorno a casa ad aspettarmi c'è il mio mondo, è la mia vita, lui è l'amore fino in fondo. Mi sdraio sul divano stanco ma è solo una scusa, così mi salta addosso finalmente a casa. A spasso per i cambi con l'odore della pioggia, con Ronny i più bei momenti dopo aver lasciato Foggia. Chiudo la porta in faccia ad un'altra giornataccia, dopo una bella doccia stringo lui tra le mie braccia. Al mio fianco, nella salute e nella malattia legati, come una rima nella poesia. Nella buona e nella cattiva sorte, uniti per la vita ci separerà solo la morte. Un vero matrimonio, un rapporto vitalizio, rispetto più fiducia, un vero e proprio sodalizio. Vorrei legalizzassero l'unione con il proprio cane, in fondo ci si lega con chi si vuole bene. Per molti sarebbe amore non convenzionale, è solo un cane, è solo un animale che guarda caso conosce solo il bene e non il male, e per me tutto per quanto vale. Vivo col mio boxer su pallova che mi dona amore ed io ne voglio ancora. Tempo pieno di tutti i miei impegni, negli ultimi 10 anni la mia felicità la devo a Ronny. Custode dei miei sogni da un decennio, veglia sui miei sogni dall'inizio del nuovo millennio. 10 anni fa come regalo di Natale qualcuno mi ha donato un essere speciale. C'è qualcosa fra lei e Ronny? Ci sono gli anni più belli con chi mi ha dato amore. C'è la mia vita, il mio star bene, il mio buon umore. C'è la famiglia da cui tornare. C'è chi sa viziarmi, coccolarmi senza farsi pregare. C'è la voglia di portare a termine un impegno, quello di lasciare impresso indelebilmente un segno. C'è il mio punto di riferimento, il suo brutto muso, un solo sentimento, c'è il mio punto fisso. C'è la posta in gioco che cresce, il senso del dovere, la serenità, la gioia, fino a farti godere. Imparando ad amare grazie al mio cane, istintivo e razionale, buono come il pane. Mi rivede in quel carattere, leale e combattivo, giocherellone all'occorrenza, testardo ed aggressivo. In ogni situazione, sempre al mio fianco, regalandomi emozioni senza essere mai stanco. C'è il mio mondo dove rifugiarmi da ogni delusione, la mia via di fuga, c'è la mia evasione. Vivo col mio boxer su pallova, che mi dona amore ed io ne voglio ancora. Tempo pieno di tutti i miei impegni, negli ultimi 10 anni la mia felicità la devo a Ronny. Custode dei miei sogni da un decennio, veglia sui miei sogni dall'inizio del nuovo millennio. 10 anni fa come regalo di Natale qualcuno mi ha donato un essere speciale. Ripagato di tutto quello perso, viziato con amore immenso senza pretendere compenso. Il suo sospiro percuote e scuote i miei ricordi, un pensiero a chi abbandona, a quei bastardi. Un'altra bella estate nella tua grida e l'autostrada, che la vostra vacanza sia un'eterna coda, non come quella che tagliate senza ragioni. Se dipendesse da me vi taglierei i coglioni. Decisioni difficili tranne una, quella di abbandonare mio figlio sotto la luna. Da 10 anni, sempre sotto lo stesso tetto, tu il custode di tutto quello che ho nel cassetto. La mia convinzione è scavata nella roccia, nel mio cuore hai costruito la tua cuccia. E come il primo giorno, non è cambiato niente, alimenti la mia vita, tu sei la mia corrente. Vivo giorno per giorno, non penso mai al domani, un domani senza te sarà come un pianista senza mani. Perché nella mia vita c'eri e ci sarai, lo testimoni il tuo tattoo quando mi mancherai. Vivo col mio boxer su pallova, che mi dona amore ed io ne voglio ancora. Tempo pieno di tutti i miei impegni, negli ultimi 10 anni la mia felicità la devo a Ronny. Custode dei miei sogni da un decennio, veglia sui miei sogni dall'inizio del nuovo millennio. 10 anni fa come regalo di Natale qualcuno mi ha donato un essere speciale. 21-12-2000, primo giorno della nostra unione. 21-12-2010, festeggio la mia più lunga relazione. 21-12-2012, finirà il mondo ma non il nostro amore. Tu vivrai per sempre dentro me, come queste parole.